America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Una tragedia americana, quella che abbiamo seguito ieri nel sud degli Stati Uniti, 164 tornado, ormai siamo ben al di sopra delle 300 vittime, sono tragedie che non dovrebbero, non si immagina che possano capitare in un paese avanzato come gli Stati Uniti d'America. This is what one deadly twister left behind in Tuscaloosa, Alabama. Now imagine this scene many, many times over across the southern parts of the United States. Avete sentito i rumori di questo uragano? Sono rumori che sono stati registrati da un cameraman coraggioso, di quelli che ogni tanto vediamo in televisione, soprattutto qua in America, si aggrappano a un palo da qualche parte e così cercano di resistere i venti e fanno in qualche modo spettacolo. In questo caso non è stato spettacolo, è stata, come vi ho detto prima, una tragedia, perché questi tornados, che sono poi delle trombe d'aria che si formano all'improvviso, che avanzano, le si vedono correre questi tornado lungo le strade, lungo i campi, lungo il territorio, e acchiappano quello che capita nella loro tromba e sollevano addirittura autovetture, sollevano delle case. Ecco, in questo passaggio di questo mega tornado, che era largo, sembra addirittura un miglio, i meteorologi stanno ancora cercando di capire l'anatomia di questa forza della natura che si è scatenata abbastanza all'improvviso. Vi avevo detto 164 tornado registrati in 24 ore. Pensate che questo numero è il numero che normalmente si registra in un intero mese, soprattutto nel mese di aprile. Questa è un po' la stagione dei tornados, ne avevamo parlato già qualche tempo fa, e colpiscono questi tornados la cosiddetta Tornado Alley, che è un po' il corridoio dei tornado negli Stati Uniti, nel sud. E come sono state distribuite le vittime? Beh, l'Alabama è stato, direi, lo stato più colpito. Abbiamo visto una devastazione incredibile, case divelte, e ci sono state ben 192 vittime secondo il conteggio di ieri, ma questa mattina già si parlava di oltre 200 vittime, una quarantina di vittime in Mississippi, una quarantina nel Tennessee, una ventina in Georgia, una decina in Virginia e per ora soltanto due o tre vittime, per fortuna, in Kentucky. Stuff started sucking out of the garage and the garage doors threw it. The garage doors left and the back door left to the basement. Questa è la voce di Beth Varden, una signora dell'Alabama. Siamo scesi in garage, racconta, e da lì nel seminterrato pensavamo di essere protetti, ma potevamo sentire tutto quel che stava succedendo di sopra, una specie di ruggito. Non è proprio come un treno, è un ruggito continuo, e quando è finito e siamo usciti, la prima cosa che abbiamo vista, la casa del nostro amico Gary non c'era più. Ecco, case che spariscono, non soltanto case di legno. Nelle immagini che abbiamo seguito ieri e già questa mattina c'erano anche delle case di mattone che venivano completamente divelte dalle loro fondamenta. Chissà quanti di voi avranno visto dei film, sembrano appartenere certe immagini alla realtà romanzesca, quando si vedono, per esempio, ricordo un paio di film in cui si vedevano questi contadini, questi agricoltori, che improvvisamente vedevano in lontananza la formazione di questo tornado che cominciava ad avvicinarsi e correvano in questi rifugi sotterranei, perché in questo corridoio che si estende dal sud ma passa poi attraverso la parte centrale degli Stati Uniti, si sa che questi tornado arrivano all'improvviso. Ci sono questi rifugi, sono dei veri e propri rifugi sotterranei, e ci sono queste porte metalliche che si aprono sulla superficie, si richiudono, e a quel punto si sta là dentro ad aspettare che passi la tempesta. I was just inside, I was listening to the news, paying attention. I got my coat, my quilts, my mattress and a football helmet, and I got in the hallway, I lay down. Questa è la testimonianza di un ragazzo dell'Alabama, di nuovo, dice: ero in casa, stavo ascoltando le news quando improvvisamente è andata via la corrente. Ho sentito un suono come di un treno, un vento fortissimo, la casa che si muoveva, non sapevo che fare. Ecco, si è salvato, altri non si sono salvati. C'è questa testimonianza continua di un rumore di un treno che si avvicina, che esplode nel suo rumore e poi passa e si allontana. Ecco, questa è un po' la sensazione che hanno provato migliaia e migliaia di persone. And it's so hard on me as being from Tuscaloosa and loving Tuscaloosa like I do. It makes it even more difficult being the governor and seeing the destruction that we have here. E nello stato più colpito, l'Alabama, vi dicevo, ha parlato il governatore Robert Bentley in una conferenza stampa da Tuscaloosa e dice: è difficile per me che sono nato qui vedere tutta questa devastazione, sapere quante persone hanno perso la vita. Oggi ho attraversato lo stato, oggi ho visitato le zone più colpite, 18 contee, dove al momento, e il governatore parlava ieri, una registrazione di ieri, quella che vi ho fatto sentire, sono state confermate 194 vittime, ora le vittime sono ben al di sopra dei 200. Questo è un disastro naturale di proporzioni straordinarie. We rode in a helicopter around Jefferson County, Tuscaloosa County, and I've never seen devastation like this in Alabama. Questo invece è il senatore Richard Shelby, è volato immediatamente da Washington, dice di aver sorvolato in elicottero la contea di Jefferson e di Tuscaloosa, che è la sua città natale. Non ho mai visto una cosa del genere in Alabama, il peggior disastro che abbia mai visto, dice. I want to begin by saying a few words about the devastating storms that have ripped through the southeastern United States. In a matter of hours, these deadly tornadoes, some of the worst that we've seen in decades, took mothers and fathers, sons and daughters, friends and neighbors. Barack Obama ha dichiarato immediatamente lo stato d'emergenza, ha cancellato tutti i suoi programmi. Oggi si recherà nelle zone disastrate. Ecco, la giornata di oggi è la giornata che conta, è la giornata in cui si contano le vittime, in cui si realizza chi si è salvato e chi non si è salvato, in cui cominciano ad arrivare gli aiuti, in cui la solidarietà nazionale si materializza, devo dire, negli Stati Uniti è fortissima, ma la giornata più difficile è quella del giorno dopo, in cui ci si rende conto davvero di quanto difficile sarà ricostruire, rimettere in piedi anche l'economia di questi stati che sono stati poveri, sono stati difficili e purtroppo non si riprenderanno molto presto. Una notizia economica infine, il PIL americano per il primo trimestre non è andato benissimo, c'è stata una crescita dell'1,8%, ma ci si aspettava solo mesi fa una crescita del 3%, dunque l'economia americana rallenta. Qualcuno dice che questo sarà un rallentamento provvisorio, che poi già nel secondo trimestre avremo tassi di crescita del 4%. Il problema è che i mercati non reagiscono bene. Il dollaro è arrivato addirittura 1,48 contro l'euro. L'oro ha guadagnato di nuovo l'1,4%, nuovi massimi. Siamo a quota 1538, meglio lo eravamo ieri alla chiusura, e oggi di nuovo è già ripartito al galoppo. Vedremo come andrà la giornata. Dunque una situazione di tensione, ma una situazione, si dice, che dovrebbe essere temporanea. La grande incognita resta quella della disoccupazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Comincia oggi il New Orleans Jazz Festival, una delle manifestazioni musicali più longeve degli Stati Uniti, alla sua 41esima edizione. Per 10 giorni la città della Louisiana sarà infiammata da musica fantastica. Direi che vale la pena di dedicarlo a New Orleans, la città che si è rimessa in piedi dopo l'uragano Katrina, come augurio per le città, per i paesi devastati dai tornados nel sud. Ascoltiamo uno dei più grandi musicisti jazz, il sassofonista Sonny Rollins, in suo successo St. Thomas. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.